Dal 3 giugno all'8 agosto 2022 andrà in scena la terza edizione di Elementi, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni Mu e Magma, con l'intento di ritrovare una dimensione performativa e immersiva all'interno di paesaggi naturali che caratterizzano il territorio romagnolo. Con noi oggi ai microfoni di Radio Città Fugico c'è Enrico Malatesta, a cui do il benvenuto. Ciao Enrico. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Ci saranno 10 appuntamenti lungo tutta la Romagna che punteranno a potenziare il legame tra suono, arte e natura. Ti andrebbe di approfondire meglio questo progetto? Sì, intanto premetto che il progetto non è solo rivolto a degli spazi naturali, ma a degli spazi di particolare interesse paesaggistico, ma anche antropico, delle varie città che si susseguono nel programma. È un progetto che è nato, diciamo, a seguito e sull'onda della prima quarantena, diciamo, della primavera del 2020, quando ancora sembrava ci fossero, ed effettivamente c'erano molte problematiche per l'organizzazione degli spettacoli dal vivo e della musica dal vivo. E le due associazioni Magma e Mu hanno provato assieme a immaginare un percorso che potesse, diciamo, ovviare a questi problemi, valorizzando anzi l'intervento, diciamo così, di proposte musicali negli spazi ampi, molto aperti e molto, diciamo, potenti dal punto di vista della loro dimensione estetica, morfologica e anche per il loro valore culturale ed economico, molto spesso per quel che riguarda il territorio romagnolo. Infatti la rassegna nacque e iniziò, diciamo così, a Cervia, nello specifico nell'ambito delle saline di Cervia, che sono uno degli ambiti, diciamo, antichi e territoriali più importanti di quel territorio, che ancora oggi appunto sono un motore culturale, economico e paesaggistico per la zona, ecco. In questa terza edizione si esibiranno musicisti anche internazionali. Volevo chiederti quali saranno appunto gli elementi che caratterizzeranno i loro live. Il programma è un programma nutrito, estremamente eterogeneo, quindi diciamo è molto difficile sintetizzare appieno la vasta gamma di proposte che verranno fatte, che comunque diciamo, stanno tutte tra questa escursione che va dalla musica, diciamo, acustica, elettroacustica, di stampo contemporaneo, con anche delle matrici blues o delle reminiscenze di stili musicali noti ai più, fino a sperimentazioni più estreme in ambito di musica elettronica, in ambito di musica ambient e noise, sino ad arrivare anche a performance legate al cammino, quindi alle cosiddette soundwalk. È un progetto finale che lega appunto arte performativa e arte sonora con la partecipazione di Anna Maria Aimone, che è una danzatrice italiana di fama internazionale, e Glauco Salvo, che è un artista sonoro, appunto parte tra l'altro dell'associazione Mu, che si esibirà appunto con dispositivi di riproduzione del suono portatili e, diciamo, in una sorta di set ambientalizzato che va ad intervenire nell'ambito del Parco di Levante di Cesenatico. Hai nominato la Soundwalk del 31 luglio e io ti volevo chiedere in cosa consisterà precisamente, in che modo arriverà la musica al pubblico, perché questa camminata porterà ad attraversare la salina di Cervia fino ad arrivare poi alla torre esagonale. Esatto. Allora, noi abbiamo sempre organizzato nell'arco del programma annuale un momento legato al cammino, nel senso in cui viene problematizzato un po' il fatto di camminare e ascoltare il movimento. Quest'anno utilizzeremo una porzione della salina di Cervia che non abbiamo mai utilizzato, che appunto confluisce nella torre esagonale, nel bacino delle saline. Abbiamo invitato l'artista inglese Tim Shaw, che presenta il suo progetto Ambulation. È un progetto appunto in cui le persone hanno, diciamo, fruiscono di un live set fatto in tempo reale da Tim Shaw usando field recording e dispositivi di registrazione ambientale attraverso delle cuffie Bluetooth. Quindi essenzialmente il live si ascolta in cuffia camminando, quindi ognuno, diciamo così, trova una dimensione privata e sonorizzata del proprio percorso di cammino, nel senso che chiaramente nel momento in cui si ascolta in cuffia un live, anche se lo spazio, diciamo, è uno spazio molto ricco a livello sonoro e molto dinamico, chiaramente diciamo, il rapporto con l'esterno viene tendenzialmente precluso, per cui si privatizza l'ascolto. La camminata confluirà poi alla Torre Esagonale, in cui sarà un intervento sonoro acustico di Laura Newsday, che è una sassofonista che sta tra Modena e Bologna. Quindi l'idea è essenzialmente di permettere alle persone di avere un ascolto intimo, immersivo e protetto, nel senso che protetto dall'esterno, con una cifra autoriale dell'artista inglese Tim Shaw, e poi appunto togliendosi le cuffie riappropriarsi dello spazio acustico, degli suoni ambientali con l'intervento del sassofono di Laura. Perfetto, allora Enrico io ti ringrazio per questa chiacchierata e invito tutti a seguire questi 10 appuntamenti dal 3 giugno all'8 agosto. Sì, se posso aggiungere magari sì, certo. Dire rapidamente le varie date, le varie città, sarò brevissimo senza scendere nello specifico delle proposte. Venerdì 3 giugno Villa Orestina, Faenza con Ciro Vitiello e DJ Setti 13. 10 giugno al Bosco di Fusignano JH Gourage, il 24 giugno nella Galleria Vegetale di Cotignola Sara Berz e Nuova Superficie e Malatesta Lami, è un duo musica elettroacustica. 1 luglio al bacino di laminazione di Bagnacavallo Felder Melder e FF. Il 10 luglio alle Saline di Cervia Mike Cooper più collettivo Scena che correrà una selezione d'ascolto. Il 15 luglio alla Rocca Sforzesca Bagnara di Romagna Oren Ambarchi. Il 29 luglio al Lavatoio di Massa Lombarda Domiziano Maselli e Leonardo Rubboli. 31 luglio alla Torre Esagonale delle Saline di Cervia Team Show e Laura News Day appunto. 5 agosto all'aeroporto Baracca di Lugo Muhammad Reza Mortazawi La Musa 2 e Carolina Martinez DJ set e si conclude l'8 agosto al Parco di Levante Anna Maria Aimon e Glauco Salmo. Volevo ringraziare appunto tutti i comuni perché il progetto Elementi al di là degli sforzi delle associazioni Mue Magma si realizza grazie al bene pubblico, nel senso che è un progetto finanziato dai vari comuni della Romagnoli che partecipano alla rete di progetto. E grazie ancora Enrico. Grazie a te.